I lavori di domani di Anna Marino. La figura del data scientist è una delle figure professionali che hanno visto negli ultimi anni la crescita più significativa in termini di domanda a livello globale e anche ovviamente a livello italiano. L'eccesso di domanda però rispetto all'offerta del mercato e della formazione porta a una retribuzione anche per figure neolaureate mediamente superiore rispetto alle figure professionali diverse appunto dal data scientist. La capacità di trasformare però in virtuale elementi della vita reale, incluse le relazioni interpersonali, richiede figure professionali in grado di trattare correttamente i dati nel rispetto della riservatezza e dell'etica. Queste trasformazioni sono trasversali in molti campi, dalla ricerca all'industria, ai servizi, ma anche nel campo agroalimentare, medico, risorse umane, nella pubblica amministrazione. E oggi per parlare di tutto questo, sia di come ci si forma, sia del lavoro di data scientist, abbiamo Gabriella Pasi, direttrice del Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione all'Università di Milano Bicocca e docente di Text Mining and Search, insegnamento in lingua inglese per il corso di Data Science, e Silvia Santamaria, studentessa laureata triennale in Scienze Statistiche ed Economiche e laureata magistrale in Data Science, ambedue le lauree all'Università di Milano Bicocca, professione Data Scientist. Allora partiamo dalla formazione perché poi arriviamo all'applicazione e al lavoro di Data Scientist. In che cosa appunto consiste questa formazione che voi offrite, Gabriella Pasi? E oltretutto voi avete da poco sfornato i primi laureati. Questo corso di studi è giovane perché è nato 2 anni fa presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Questo corso di studi ha una natura fortemente interdisciplinare perché vede coinvolti i contributi di 3 dipartimenti. Per l'appunto il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa e il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Questa interdisciplinarietà è molto importante perché un data scientist deve avere delle basi di conoscenza che coprano conoscenze informatiche, quindi algoritmica, ma anche conoscenze statistiche e matematiche. Infatti ricordo che l'obiettivo di un data scientist è quello di avere la capacità di estrarre da una grande quantità di dati, che possono essere di vario tipo, testi per l'appunto, immagini e dati anche numerici, delle informazioni che possono essere fruibili per poi prendere delle decisioni in vari settori applicativi. Deve essere non solo un gestore di dati ma anche un grande pensatore, deve riflettere, deve capire come applicare insomma questa interdisciplinarietà che prevede più dipartimenti. Vuol dire che comincia anche a pensare integrando non solo i dati ma tutte le informazioni e le formazioni che riceve, e da questo punto di vista però deve essere subito applicativo. Come? Sì, assolutamente. Vi faccio un esempio: ho una grande quantità di dati che sono relative agli acquisti di utenti per esempio sui siti di commercio elettronico e posso predire il gradimento che gli utenti hanno di certi tipi di prodotti, e in questo modo potrò raccomandare dei prodotti come siamo abituati a fare quando usiamo i social media, quando usiamo il web, raccomandare dei prodotti che possono essere di gradimento a un utente. Oppure, altro esempio, aziende che si occupano di finanza possono vedere com'è l'andamento del mercato e per esempio quali sono i prodotti finanziari scelti da certi utenti per poter raccomandare i prodotti, oppure per poter predire il comportamento e l'andamento del mercato. Ecco, vediamo subito che il corso ha un'applicazione pratica immediata. Sicuramente le imprese drizzeranno le antenne quando sentono queste possibilità che può dar loro avere una figura come il data scientist, e questo laboratorio virtuale poi si trasforma in un laboratorio reale. Cioè, quali strumenti ha, come si può poi collegare appunto con le aziende? Il nostro corso di studi si caratterizza per avere parecchi laboratori dove i ragazzi possono confrontarsi con dati di vario tipo che sono anche forniti da aziende. Quindi noi abbiamo anche questo Industry Lab per esempio, dove varie aziende forniscono una grande quantità di dati per poi promuovere questi challenge tra gli studenti, che con questi dati possono lavorare applicando diverse tipologie di algoritmi come algoritmi di classificazione, di clustering, quindi di apprendimento automatico, ma non solo, e possono cercare di trarre da questi dati delle informazioni. Importante utilizzare questi strumenti che poi, o queste modalità che gli stessi studenti poi come nativi digitali sanno già che cosa sono l'hackathon, le sfide appunto per sviluppare certi modelli. Ecco, è importante anche lo strumento dello stage, e qui appunto veniamo a la studentessa, che non è più studentessa perché ormai è laureata da poco, da quanto? Da un mesetto. Ecco, appena una delle prime laureate di questo corso, Silvia Santamaria, ci spiega un po' come è arrivata, cioè il suo percorso, e soprattutto in che cosa consiste adesso il lavoro, perché stai lavorando. Esatto, io mi sono laureata in triennale in statistica, dopodiché quindi ho iniziato questo corso sempre in bicocca, magistrale in data science. Per il corso di data science in bicocca è obbligatorio uno stage di almeno 3 mesi, ho svolto uno stage di 6 mesi, in realtà ho voluto prolungarlo presso Signal, che è un'azienda di consulenza in ambito appunto data science, dove svolgono diversi progetti in ambito machine learning e intelligenza artificiale. E dopodiché appunto ho continuato questa collaborazione con l'azienda anche dopo la laurea. Plug and play, si dice tra voi giovani, cioè i laureati in data science subito sono operativi. In che cosa consiste il tuo lavoro? Spiega. Un 80% del mio lavoro è programmazione, noi programmiamo principalmente in Python, ma comunque essendo un'azienda di consulenza abbiamo anche un 20% di contatto diretto col cliente, in cui cerchiamo di capire quali sono le sue esigenze e cercare quindi di andare incontro a quello che il cliente si aspetta da un consulente. A proposito di guadagno, hai 2 lauree, insomma, triennali, e quindi sei arrivata molto preparata al momento del lavoro. Io penso che il guadagno lordo che un data scientist percepisce subito dopo quindi la sua formazione sia all'incirca di 2000 euro lordi, forse qualcosina in meno o più a seconda dell'azienda. Penso che comunque sia un buono stipendio, magari superiore a uno stipendio di un neolaureato. Come riuscite ad avere questo collegamento con le aziende e riscontrate appunto questo grande, grande interesse? Posso fare esempi di aziende con cui noi abbiamo delle collaborazioni e mettono a disposizione anche i dati, per esempio anche Fastweb, Vodafone, Oracle, A2A, questi sono solo alcuni esempi. E accanto ad aziende di dimensioni così, diciamo, più grandi, ci sono poi anche piccole e medie imprese. Le aziende soprattutto poi offrono opportunità di svolgere stage al loro interno su queste tematiche, quindi moltissimi dei nostri studenti svolgono degli stage all'interno dell'azienda, alcuni anche all'estero. Un 20% dei nostri studenti sono studenti lavoratori. E sfatiamo anche il mito che tutta questa parte informatica, scientifica, matematica e tutte queste discipline sono anche proprie delle donne. Qui abbiamo 2 donne e il fattore femminile è presente, molto presente nei vostri corsi, no? Per quanto riguarda il corso di studi in data science abbiamo un 20% di presenze femminili, che non è male. E quindi il data scientist può essere donna o uomo, no? Certo.